Dunque, io comincerei a ringraziare, intanto a presentarmi anche se più o meno mi conoscete tutti. Io faccio parte di RAM insieme a Ilaria, Restauro Arte e Memoria. È un collettivo che si occupa del restauro delle lapidi della Resistenza su Milano, perché è la nostra città, ma questo non toglie che questo progetto possa essere portato anche fuori. E ringrazio innanzitutto ZAM, il collettivo ZAM, per l'ospitalità e la volontà di organizzare questa giornata insieme a noi. E ringrazio tutti gli ospiti qui convenuti, a partire da Reggio e Bologna, che deve ancora arrivare, da Sandra, che è qua presente per il collettivo degli Arbegnacci Urbani, Mariana, che arriverà per il collettivo Resistenza in Cirenaica, Orso per il collettivo ZAM, che farà un intervento, e per i nostri storici, Marcello Ingrao e Marco Sannella. Poi li presenterò meglio, uno per uno. Dunque, da che cosa nasce la necessità, di organizzare questa giornata? Nasce sostanzialmente dalla volontà di indagare il nostro rapporto con la storia e nel rapporto in cui a livello di comunità interagiamo con il nostro passato comune. Questo per come prima cosa ci porta ad analizzare noi chi siamo. Se io parlo di un nostro rapporto con la storia, la prima cosa che mi chiedo è sì, ma noi, nostro di chi? E quindi come riconoscersi come una comunità dove possiamo stare dentro tutti nonostante le differenze di opinione, le visioni politiche. Io penso che la definizione più calzante, più includente per tutti sia quella di antifasciste e di antifascisti, qualcosa che dopo l'antifascismo armato e dopo quello che nella storia, l'inversione totale di tendenze e il cambiamento storico che ha determinato, abbia trasceso i suoi limiti storici appunto per diventare un modo di esistere, di un modo di rapportarci tra di noi e di metterci in relazione col mondo. A me piace sempre citare una figura che per me è di riferimento, cioè Giovanni Pirelli. Giovanni Pirelli è un importante intellettuale italiano, nome di battaglia Pioppo, ha fatto la Resistenza. Dopo la Resistenza pubblica le lettere dei condannati a morte, le lettere dei condannati a morte italiani della Resistenza, e insieme a Pietro Malvezzi. E oltre questa redazione poi passa alla redazione delle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, quindi già trascende i limiti di uno Stato, dei confini, oltre poi a trascendere totalmente i confini europei e di quello che poteva essere una Resistenza armata durante la Seconda Guerra Mondiale, per arrivare a pensare che il fascismo, l'antifascismo, è quella cosa con cui sconfiggere tutti i fascismi e i colonialismi in giro per il mondo. Importante nella sua parabola è stato sicuramente l'incontro con Frantz Fanon. Giovanni Pirelli ha fondato a Milano il centro studi Frantz Fanon, che oltre a studiare le lotte terzomondiste, mi si permetta questa espressione che però è abbastanza limitante per quello che avevano in mente loro, sosteneva economicamente le lotte di liberazione dei popoli che stavano ancora avvenendo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che sono state floride lotte fino agli anni 70, appunto dei resistenti di tutto il resto del mondo. Quindi, evidentemente, questo concetto di antifascismo va assolutamente oltre i confini della storia per entrare nei confini delle nostre comunità e diventa una lotta contro ogni tipo di ingiustizia. Questo perché? E soprattutto in relazione a che cosa? In relazione alla storia, ogni tipo di pensiero che facciamo e queste piccole intuizioni che noi abbiamo avuto semplicemente essendo due artigiane, noi non facciamo altro che il nostro lavoro e lo riproponiamo in una visione politica che ci sembra assolutamente necessaria, non può non, cioè, prescinde assolutamente dalla storia e quindi dal mondo e dal modo in cui noi siamo nella storia. E il modo in cui noi siamo nella storia è sicuramente la memoria, quello che dalla storia passa a diventare il nostro sentire comune. Quindi, io vorrei lasciare immediatamente la parola su questo piccolo ragionamento che abbiamo fatto, cioè sul fatto che porsi come antifascisti significa confliggere, entrare in conflitto ogni qualvolta che noi sentiamo che l'oppressione si avvicina o diventa più forte. È evidentemente una questione sempre di rapporti di forza che vanno riequilibrati. E quindi oggi la parola conflitto tornerà molto spesso nei nostri interventi, perché così si chiama l'iniziativa di oggi, ma si chiama in questo modo appunto perché essere antifascisti significa per lo più non accettare, entrare in conflitto con un modo ordinario di intendere l'esistenza. Quindi io vorrei immediatamente introdurre il primo intervento, che è l'intervento di Marco Sannella, che è uno storico di riferimento per il nostro territorio, vicepresidente della sezione AMPI, che di mestiere fa il magazziniere, e questo è importante. L'unica che poteva permettersi di ridere ha riso, però ci teneva che io lo presentassi così, ed è un filosofo che si sta specializzando nel capitalocene, a cui quindi cedo subito la parola. Beh, ringrazio Zam e l'organizzazione. Io ho preparato un breve intervento che vuole ripercorrere la tematica del conflitto e la torsione che questa prende da due eventi fondamentali che preparano il fascismo. Due eventi che sono due eventi periodizzanti e che danno questa torsione che ho appena detto. Mi accompagnerà in questa breve esposizione una definizione. So che cominciare con la definizione è avvilente, però questa verrà risignificata e prenderà corpo nel corso dell'esposizione. È quella che definisce il fascismo come l'importazione all'interno della metropoli dei metodi coloniali. L'importazione all'interno della metropoli imperialistica dei metodi coloniali. Ecco, vediamo come si sviluppa e come si arriva a questo. Questa definizione, se voi le cercate in ambiente accademico, nella produzione libraria ufficiale, è quasi praticamente scomparsa, rimane solo dentro la letteratura militante, una letteratura che io ritengo superiore notevolmente a quella che le case editrici in voga e quelle che producono storia a seconda degli anniversari. Poi che ci cada anche a noi questo centenario, penso sia di secondaria importanza. Allora, i due eventi che preparano, vengono a dare questa torsione al conflitto sono, da un lato, la Comune di Parigi, 1871, la seconda grande paura, è chiamata, dopo la paura della Rivoluzione francese, abbiamo questa seconda grande paura, e poi la terza grande paura definitiva che darà, diciamo, un'accelerazione a questo processo di criminalizzazione e di razzializzazione del conflitto. Ed è la rivoluzione d'ottobre. Queste sono le premesse di questi due eventi periodizzanti che si situano all'interno, diciamo, di un periodo che vede l'espansione imperialistica del capitalismo, di un nuovo ciclo di accumulazione capitalistica e l'esplodere di contraddizioni interne che esitano nella Grande Guerra e danno il perimetro, certo un perimetro mobile, nel quale gli eventi si strutturano. Con grande lungimiranza Engels nel 1888 dirà, in un periodo veramente lontano da questi, dalla Prima Guerra Mondiale per, sotto ogni punto di vista, una guerra è una guerra di un'estensione e violenza finora inaudita si avvicina. Dopo Engels vi citerò Gramsci, che sostiene che il tentativo della Comune di Parigi del 1871 esaurisce quella che è la forza progressiva della borghesia. La fase ascendente della borghesia e della modernità risulta chiusa, se già prima c'era stata qualche avvisaglia di tentativo non solo di combattere l'ancien regime e la società feudale, ma la borghesia colpirà occasionalmente anche il nuovo, il proletariato nascente. Dopo il 1871, diciamo, l'utilizzo della violenza nei confronti del proletariato diventa sistematica e coinvolge la semplice durata della società borghese. Quindi la Comune di Parigi, che è un evento che porta alla più alta temperatura il conflitto sociale nell'Ottocento, anticipa e crea lo spazio dello scontro politico materiale e ideologico della seconda grande paura che prima ho detto. Solo l'ottobre bolscevico risulterà ancora più duro e anche i suoi tentativi di emulazione che ci saranno in Occidente, poi si sposterà in Oriente questo. Allora, se dalla paura del bolscevismo trarrà alimento l'arsenale ideologico del fascismo, l'insorgenza comunarda del 1871 promuove e da lì fa una nuova narrazione ideologica, e anche antropologica per certi aspetti, che sin dal tempo della tratta dei neri, avviati in catene verso il nuovo mondo, organizza lo spazio teorico del Novecento. Facendo un passo indietro, un leggero passo indietro, vi leggo due brevi righe su quella che è stata la prima grande inchiesta sulle classi lavoratrici, inchiesta che coinvolgeva le classi lavoratrici francesi e inglesi. Così si dice: l'impegno con cui la parte più degradata delle classi povere si consacra alla passione dell'ubriachezza non si trova in pari misure che nei popoli selvaggi. Razzializzazione. Già vengono messi come due vasi comunicanti in confronto i popoli colonializzati con le classi subalterne. Che triste confronto, eh. Che scenario deprimente quello offerto da questi uomini, nostri compatrioti, sottolineato, e fratelli, mentre gli altri no, che sprofondano godendo nell'abbruttimento più turpe, iniettandosi con l'alcol la rabbia delle belve e mischiando in ignobili orge sangue ferite. Questa è un'indagine ufficiale, governativa. C'era scritto questo, vi risparmio altre cose per brevità. Questa trascrizione quindi delle dinamiche sociali e di conflitto in chiave naturalistica porterà al conflitto all'interno della società come uno spazio di sopravvivenza tra specie diverse. Il maggior teorico del razzismo dell'Ottocento, che era Arthur de Gobineau, che ha scritto quel saggio sulle ineguaglianze delle razze che darà la stura e sistematizzerà tutto il pensiero del razzismo europeo seguente, già dando questo titolo, saggio sulle ineguaglianze delle razze, sembra un controcanto al settecentesco di Rousseau, il saggio sull'origine dell'ineguaglianza. Ma Gobineau non si limita a parlare di razze coloniali, di, scusate, cito lui, negri e gialli, sulla scia dello sterminio dei nativi americani e della soggezione degli africani deportati. C'è una novità che spesso sfugge agli analisti, ma che a un approccio militante risulta evidente. La novità sta nella mobilitazione non solo di un lessico della superbia europea e occidentale, ma le razze inferiori, e quindi orientali e africane, sono rappresentate anche dalle classi sociali. Brutta forza lavoro, simili ad animali ottusi, la populace, come si diceva in Francia, il popolaccio, era una razza, e cito, negra, rozza e irrazionale. La razzializzazione quindi del conflitto e delle classi subalterne è cominciata. Il parallelismo è evidente, vi ricordate la citazione all'inizio. Questa vicenda ha radici di lungo periodo, lo sappiamo. Viene indurendosi tutta questa vicenda dopo la fiammata rivoluzionaria della Comune. Conosce qui un salto di qualità. D'altronde, qual è la misura? La prima rivoluzione proletaria della storia. Era avvenuto l'inaudito. Il quarto Stato insorge, conquista la municipalità dell'Hôtel de la Ville, prende le redini dell'amministrazione e costruisce un embrione di Stato operaio. E ancora, l'inaudito è con il sostegno della maggioranza della popolazione parigina. Quando poi viene sedata l'insurrezione e nella Semaine Sanglante, nella settimana di sangue, vengono uccisi 20.000 comunardi, se volete fare un esempio, so che la contabilità magari a volte lascia il tempo che trova, ma il terrore giacobino del 1793-94 in 15 mesi fa più o meno 15.000 morti. La repressione operata dai versaliesi in una settimana ne fa 20.000 e altrettanti vengono deportati nelle colonie e principalmente in Nuova Caledonia. Ecco, gli intellettuali adesso su questa scia producono resoconti che non vanno troppo per il sottile. I rivoltosi della Comune non sono solo estremisti naturali, come nel migliore dei casi vengono definiti. Sono, cito sempre, negri sotto mentite spoglie, sanguinari degenerati, renitenti al disciplinamento, in sintesi una razza inferiore dal quale occorreva difendere la società. Questo termine Foucault lo riprenderà nei suoi corsi, come difendere la società. L'episodio della Comune ha anche un effetto ordinatore sul dibattito ideologico. Vi faccio un esempio. Quello che era lo storico più raffinato, Hippolyte Taine, di fine Ottocento in Francia, uno storico raffinatissimo che si occupava di Tito Livio, si occupava dell'arte italiana, dopo la Comune riorienta tutto il suo pensiero. E questo tentativo di costruire una storia naturale della Francia, che cosa viene, come viene a presentarlo? La rivoluzione giacobina, gli assetti istituzionali derivati da questo, sono gli effetti di un radicalismo deviato e deviante, dell'esasperazione esiziale del conflitto di classe, dello scatenamento di una violenza ferina che era estranea allo svolgimento della storia francese. Agli occhi di Hippolyte Taine, il rivoluzionario, sia quello del 1789-93, sia quello della Comune di Parigi, erano il barbaro. Pensate, uno storico raffinato, l'animale primitivo, la scimmia smorfiosa, la scimmia sanguinaria lubrica che uccide sogghignando. Poi su questo parallelismo tra mondo animale, classi subalterni e popolazione neocoloniale dovremo incontrarci per parlare anche di antispecismo. I rivoluzionari sono una malattia del corpo sociale, un virus da debellare, il che era puntualmente avvenuto, no? Tramite un bagno di sangue. L'altro raffinato letterato, Théophile Gautier, al quale Baudelaire dedica i suoi Fiori del male, parlerà delle iene del 93, sempre riferimento anche al mondo animale, e delle scimmie, dei gorilla della Comune. I primi studi di psicologia sociale che nascono in Francia parlerà di folla, di folla delinquente sulla scia degli insorti dell'81, una folla delinquente prigioniera di istinti e abitudini macchinali, un essere mostruoso, adulto, infantile al tempo stesso. Ma forse il più lucido esponente dal punto di vista borghese imperialistico era lo studioso per eccellenza, il primo del concetto di nazione, Ernest Renan. Ernest Renan vuole e richiama la colonizzazione in grande, non quella che c'era stata fino a quel momento, perché diventa necessità immediata. L'espansione coloniale è un'urgenza. Lo sfruttamento delle razze inferiori diventa strumento indispensabile per attenuare i conflitti, per superare le contraddizioni sociali non più governabili e così scongiurare nuove scosse rivoluzionarie. Il primato europeo, il canone eurocentrico, reiterava la priorità del dominio universale su tutto il pianeta e garantito da un mix di interventi razziali e di contenimento duro delle dinamiche sociali. La nazione da questo momento non fa più parte della primavera dei popoli. Si identifica sempre di più con la capacità di sopraffazione e di conquista, legittimate ovviamente dalla superiorità naturale, dalle capacità, dalla forza e si direbbe oggi dei talenti. Quindi la razzializzazione del quarto stato, in qualche modo canonizzato nella criminalizzazione dell'insorgenza comunarda, chiama in causa la dinamica fondamentale del capitalismo. L'espropriazione della forza lavoro, la riproduzione capitalistica si compie come un rapporto di potere, un luogo di dominio, di violenza totale e addirittura si ribadisce una logica feudale che si riteneva superata, presenza dell'arcaico nel moderno. Quindi riemerge la trasmissione ereditaria, ma sarà la trasmissione ereditaria non del sangue, ma delle risorse e delle posizioni sociali. Di qui il ricorso al discorso razzista ancora, che viene ancora indurito, la trasformazione dei subordinati razze inferiori. Questo discorso diventa una potente risorsa di occultamento e di legittimazione. E occorreva una rappresentazione all'altezza di questa situazione, capace di spiegarlo e soprattutto di giustificarlo e trasfigurarlo. Faccio un breve riferimento all'Italia prima di chiudere. Anche in Italia lo sterminio dei rivoltosi parve una misura di igiene preventiva contro il disordine, nascente movimento operaio, brigantaggio, organizzazione delle campagne dei braccianti e così via. Si pensi ai cannoni di Bava Beccaris che fecero strage di poveri alle soglie del nuovo secolo. E qui cominciano i ritratti di Cesare Rombroso, che dedica un libro all'anarchico, figuriamoci. I criminali anarchici e i delinquenti abituali sono simboli delle classi pericolose e sillogi di tare fisiche e morali. Viene proprio descritto fisionomicamente l'anarchico. Le classi pericolose occupano un posto particolare nel mezzogiorno d'Italia, che è infestato, testuali parole, da trogloditi e briganti. E al seguito della repressione del brigantaggio andrà il giovane Lombroso come medico militare e conferma le tare, prima ipotizzate, che sono all'origine della criminalità barbarica che affligge la regione. Il meridione era arretrato perché i meridionali, sudici per lo più miserrimi e ignoranti, erano un'altra razza, testuale, renitenti al lavoro, inadatti alla cooperazione, tali erano per natura, come, e qui, le donne e i selvaggi, entrano anche le donne, prodotti di un arresto evolutivo. Le gerarchie sociali, largamente corrispondenze, in questo caso all'articolazione geografica della penisola, erano plasmate da una costituzione naturale e razziale della popolazione. L'altro grande teorico razzista di quel periodo, tutti questi erano accademici di primo piano, non erano dei matti o degli originali, dei naif. Vendevano un sacco di libri in Italia e dall'estero. Erano quella che veniva chiamata l'intelligenza del periodo. Questo Scipio Sighele, giurista, come altri suoi colleghi d'Oltralpe, analizza questa tesi dell'influenza dei pazzi nei rivolgimenti sociali. Per Sighele la comune non si configurava come un gesto politico. È un delitto. L'esito di un'azione criminosa, di una massa di degenerati, sono la feccia della società. E questo è un chiaro monito alla nascente strutturazione del movimento operaio. Questa interessatissima trasformazione dello scontro sociale in cronaca nera, in un perfetto romanzo criminale, questa trasformazione del conflitto politico ora espressione di una violenza ferina e primordiale, è una malattia, e questa follia si riassume in una parola: rivoluzione. Tali dottrine antropologiche, che razzializzavano la marginalità, le diffuse analisi di psicologia sociale che criminalizzano il conflitto di classe, andavano tutte nella direzione di un paradigma strutturato e complesso, pronto a essere tramandato al nuovo secolo, in vista di quelle che saranno le nuove emergenze. La vicenda della comune, con i suoi presunti folli, i suoi ipotetici malavitosi, le sue immaginarie virago, mi ha detto, qui devo fare una divagazione, permettetemi, le immaginarie virago sono le pétrolose, le donne che durante la comune di Parigi usavano queste bombe incendiarie un po' del forma rudimentale delle Molotov e venivano descritti in un modo veramente vituperante. Ecco. Devo dire che di contro, se leggete due poesie di Arthur Rimbaud bellissime sulla Comune di Parigi, e una è Parigi si ripopola, l'altro Le mani di Jean-Marie, dedicate a una pétrolose, dove queste mani diventano pallide e magnifiche sotto il gran sole carico d'amore attraverso Parigi ammutinata e impugnando la mitraglia. Sono veramente dei versi stupendi. Quindi la vicenda della Comune, come dicevo, aveva insegnato che alla base delle lotte operaie non stanno istanze sociali e neanche controversi moventi economici, ma solo patologie, degenerazioni, tare, una natura incline al crimine, inadatta al progresso civile. Il modello positivo ovviamente era il buon borghese, l'esponente della classe media, leale ai dettami del produrre, del credere e dell'obbedire. La figura del proletariato slitta fatalmente verso lo spazio della devianza, del crimine, e non poteva che attirare riflessi repressivi. La paura della rivoluzione, quindi, che avrebbe sconvolto alla radice la struttura sociale, aveva alla fine trovato una chiave discorsiva dalla forma efficace e dall'efficacissimo schema operativo. La società aveva il pieno diritto di difendersi, e qui sottolineo, con ogni mezzo, dai suoi nemici, considerata la loro disumanità, pena rinnovarsi di eventi catastrofici simili a quelli che per due mesi avevano minacciato l'ordine borghese nella Ville Lumière. Con ogni mezzo, quando prima ho parlato di ritorno dell'arcaico, richiama alcune espressioni di Marx, del quale è ricco uno dei più bei capitoli del Capitale, quello sull'accumulazione originaria, dove Marx parla di come la violenza produce effetti storici. E quindi parla, torna che cosa? torna il ferro rovente sul corpo, il taglio delle orecchie, la segregazione dei poveri, dei vagabondi e soprattutto di ciò che si organizza intorno alla coalizione operaia. Ecco, tutta questa eredità ottocentesca, il Novecento lo mette a valore con competenza e metodo, e ci avviciniamo al fascismo, agli effetti della rivoluzione bolscevica, quando intere compagini statuali passano da un lato quindi alla distruzione delle razze maledette e alla distruzione di ogni forma di organizzazione autonoma del movimento operaio. Ho finito. Sei stato cattivo con noi, Marco. Sei stato veramente cattivo. Dunque, non ci hai lasciato scampo né pietà. Dunque, tu hai finito di parlare appunto quando il pericolo rosso viene interpretato in questo modo, come qualcosa di deviato e che quindi deve essere combattuto in tutti i modi. Lo squadrismo nascente diventa il modo di combattere questo pericolo e questa deviazione dalla giusta via della società. Quindi gli ignobili come prendono corpo? Quando tu mi parlavi di un lato nobile di intendere la politica e di uno ignobile. Beh, questo, diciamo, la vulgata ufficiale presenta Machiavelli come un teorico realista dello Stato, eccetera, eccetera. C'è invece un'interpretazione che dobbiamo a Toni Negri, che non è necessariamente il mio riferimento, ma in questo è efficace, che costruisce una linea filosofica di filosofia politica cosiddetta maledetta contro una linea filosofica benedetta. Machiavelli è messo tra i maledetti perché Machiavelli sostiene l'importanza del conflitto per la qualità della società. Non solo la Roma repubblicana, non la Roma imperiale, è stata fatta grande dal conflitto tra patrizi e plebei, ma anche per la società del tempo, diceva, la direzione di marcia dell'equità viene data dagli ignobili, non dai nobili. Quindi era già individuato qual era il motore della liberazione della società, certo non in forma cosciente come è avvenuto perché il tempo non lo permetteva, all'altezza di quei tempi non lo si permetteva. Ma cerco di ribadire quello che ho detto all'inizio, il fascismo principalmente usa i metodi della distruzione totale, li porta dentro quelli che venivano chiamati i nostri compatrioti, lo porta nella metropoli imperialista. All'altezza di quel periodo nasce l'universo concentrazionario. Guarda caso dove nasce. Non nasce nell'Europa centrale. L'universo concentrazionario nasce con la guerra anglo-boera in territorio coloniale. E il più spietato di tutti, non solo Auschwitz, ma era l'Etiopia distrutta non solo dagli aggressivi chimici, ma con ogni forma di repressione tollerata e al di sopra proprio di ogni giustificazione, anche di ritorsione. Quindi l'universo concentrazionario nasce, diciamo, proprio all'interno di questa situazione di esasperazione del conflitto. L'altra cosa che vorrei richiamare a proposito di Auschwitz, per il quale io rivendico anche la specificità ebraica, ma che non vuol dire che tutta la marginalità non venisse inghiottita da questo, ma spesso si sottace a proposito del conflitto che i primi a finire a Buchenwald dopo l'andata al potere nel 33 di Hitler sono stati quasi 600.000 tra comunisti, socialdemocratici, tutta l'avanguardia del proletariato, i militanti sono finiti inghiottiti nei campi di sterminio anche loro. Infatti il movimento operaio tedesco, che fino al 33 era un punto di riferimento, scompare letteralmente. Non se ne ha più traccia dopo. Grazie. Per tornare invece in Italia, le prime forme organizzate contro lo squadrismo sono questo tipo di ignobili, questo tipo di gente non allineata, questo tipo di persone a cui buona parte dei compagni e dei militanti comunque fanno riferimento per il loro immaginario. Io volevo con questa breve introduzione passare la palla a Orso di Zam, che ci parlerà del primo conflitto durante lo squadrismo. Senso Guglielmo alza i piedi e arriva. Perfetto, perfetto. Ci siamo. siamo anche coinquilini, quindi ci intendiamo alla grande. E no, ringrazio tutti e tutte per essere qui, cercherò di essere breve. E allora, per inquadrare il fenomeno di cui parlava Cecilia, faceva riferimento agli Arditi del Popolo, che sono diciamo la prima organizzazione paramilitare o militare che si oppone direttamente al neonato fascismo. Per inquadrare un minimo il periodo storico, siamo nei primi anni 20, e come sappiamo è il periodo in cui a Milano nascono i fasci di combattimento, che si distinguono rispetto alle precedenti organizzazioni reazionarie che c'erano sul territorio, diciamo, per le caratteristiche di cui il compagno Marco Sannella faceva prima, cioè la disumanità e l'utilizzo della distruzione tout court dell'avversario politico. Quindi, come molti di noi e molti di noi sanno, i primi avvenimenti, diciamo, le prime apparizioni del fascismo erano quelle di assaltare le case del popolo, di reprimere le manifestazioni di piazza e gli scioperi, che in quel periodo erano molto diffusi, in cui, diciamo, il conflitto sociale, ed ecco che la parola conflitto ritorna, era molto acceso. Nel giugno del 19, il 17 giugno 19 per la precisione, all'interno di un'assemblea di reduce combattenti di guerra della prima guerra mondiale, un'assemblea dell'associazione Arditi d'Italia, nasce su spinta di Argo Secondari, che era un combattente anarchico pluridecorato della prima guerra, nasce questa formazione che ha diciamo l'intento e l'obiettivo di difendere le classi subalterne dagli attacchi che le squadracce stanno diciamo portando avanti nel nostro paese. Hanno, secondo me, molte caratteristiche interessanti. La prima, secondo me, è la loro diffusione, nel senso che stiamo parlando comunque degli anni 20 e di un'associazione che ha avuto una vita di circa un paio d'anni, che però ha avuto tra le sue fila decine di migliaia di iscritti, se consideriamo il tempo e la difficoltà di diffusione delle informazioni, credo che sia un elemento piuttosto rilevante. L'altro dato, secondo me, molto significativo, oltre al fatto che fossero militarmente organizzati, è che erano strutturati in modo molto gerarchico e che al loro interno facevano parte diverse anime del mondo rivoluzionario. Quindi non era una cosa inusuale trovare tra le file degli Arditi del Popolo di una città repubblicani anarchici, con magari l'anarchico che occupava una posizione gerarchicamente di rilievo rispetto al repubblicano, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di un periodo in cui la violenza era concepita in una maniera decisamente diversa da oggi, dove gli scontri per le strade avvenivano con diciamo molta più frequenza di oggi, e dove l'intervento del fascismo aveva fatto innalzare questo livello di violenza a livelli mai visti prima sul territorio italiano, ma che, come appunto diceva Marco Sannella poco fa, erano invece la normalità di ciò che avveniva nei territori coloniali. E quindi a questa violenza decisero di organizzarsi e opporsi in maniera organizzata. Ci sono alcuni esempi della storia più o meno famosi di queste vicende, che ci raccontano come innanzitutto la presa del potere da parte del fascismo non sia avvenuta nel silenzio generale o per accettazione di maggior parte degli italiani, ma attraverso scontri molto violenti e con esiti a volte anche incerti, e che diciamo forse questa organizzazione in quel periodo ebbe la lungimiranza di concentrarsi sul problema reale del momento e cercare di rispondere a quello, piuttosto che barricarsi dietro a posizioni ideologiche o similari. Per esempio, all'indomani della nascita degli Additi del Popolo, Lenin sulla Pravda, sul numero della Pravda, esorta i rivoluzionari proletari italiani ad aderire a questo movimento neonascente, mentre la gran parte dei diciamo leader politici italiani erano abbastanza contrari al fatto che i propri militanti aderissero a questa formazione. Per esempio, c'è una citazione, cioè una segnalazione che avevo trovato mentre facevo la tesi di Gramsci, che per esempio dice di osservare il fenomeno ma di mantenere la distanza senza aderire, proprio forse a causa del fatto che questa formazione non avesse un progetto politico ben delineato, se non quello di difendere il proletariato dal fascismo e sconfiggere queste forze. Giusto per citare due avvenimenti, uno è quello di Parma, che conosciamo tutti, di cui sono stati da poco i 100 anni, dove le camicie nere, cercando di assediare la città, per qualche giorno si trovarono di fronte una resistenza armata e organizzata a cui non riuscirono a sconfiggere, diciamo. E questo è un esempio, nel senso, secondo me molto, molto importante da ricordare, perché a fronte di poche centinaia di persone, per lo più appartenenti alla popolazione civile, contro 10.000 circa dagli iscritti di Cesare Balbo, camicie nere, si riuscì a mantenere le posizioni per 5 giorni, e se non fosse stato per l'intervento dell'esercito, che poi fu accolto dalla popolazione a braccia aperte, i fascisti non sarebbero mai e poi mai riusciti a entrare nella città e prendere il potere. Questo, secondo me, è un esempio di come attraverso l'auto-organizzazione e l'autogestione si può far fronte comuni anche in sfide che sembrano impossibili da superare. Un altro esempio invece, che è parecchio controverso perché ha come protagonisti, oltre che una squadra di un battaglione di Arditi del Popolo, anche una squadra di carabinieri, sono i fatti di Sarzana, che risalgono sempre all'estate del 1921, settembre 1921, ma potrei sbagliarmi, in cui praticamente una squadraccia fascista di città della Toscana, del nord della Toscana e della Romagna, stavano facendo una adunata per andare a distruggere la Casa del Popolo di Sarzana, che aveva un'organizzazione operaia piuttosto forte. E dato che la maggior parte degli aderenti alla Rete del Popolo di mestiere facevano i ferrovieri o i telegrafisti, fu facile per loro riuscire a sapere in anticipo del loro arrivo. Quindi si organizzarono e misero delle travi di legno sui binari del treno, di modo tale, dietro una curva, di modo tale che il treno, non vedendo e non potendo rallentare, avrebbe deragliato. E così succede. Succede così, e dato che insieme a questa squadra di arditi si erano appostati anche un gruppo di carabinieri, quando i sopravvissuti, i feriti del treno vengono fuori dai vagoni con una mitragliatrice, i carabinieri li falciano e viene scongiurata questo attacco. Secondo me è molto interessante, perché fa anche vedere come ci fossero comunque anche contraddizioni, diatribe, e di come comunque il fenomeno fascista in quella fase fosse ancora visto come, quantomeno anche sulla carta, come un fenomeno criminale, e che per opporsi a questo fenomeno criminale c'erano diverse modalità di organizzazione. E diciamo che secondo me la vera pecca di questa organizzazione fu che non riuscì a dotarsi di un manifesto politico realmente condiviso che potesse andare oltre al semplice abbattimento del fenomeno fascista. Però ecco, mi rendo conto che considerato il periodo storico e considerato anche, diciamo, le più grandi figure di spicco che facevano parte degli arditi del popolo, mi riferisco a Argo Secondari o a Guido Picelli, che per me sono, non so come dire, figure assolutamente fondamentali del nostro passato, che dovrebbero essere molto più, diciamo, impresse nelle nostre memorie. Avevano altre cose a cui pensare. Racconto un altro aneddoto, giusto per far inquadrare i tempi e per far capire anche che tipo di persone erano. Guido Picelli era un abitante di Parma, appassionato di teatro, che come tanti aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale, come tanti aveva diciamo, avuto delle promesse che fosse un lavoro migliore, un futuro migliore, una terra da coltivare, e come tanti non aveva ricevuto niente al suo ritorno dalla guerra, e per tradizione familiare, storica, cittadina, un passato abbastanza, diciamo, socialista. Lui un giorno si arrampica sul Parlamento e sostituisce il tricolore italiano con una bandiera rossa e viene arrestato. Da questo momento in poi, nella città di Parma cominciano ad essere, diciamo, sempre più frequenti le scorribande da parte dei fascisti. E approfittando delle elezioni, la popolazione lo candida attraverso il partito del PSI a sua insaputa. Lui viene eletto e quindi, grazie all'immunità parlamentare, può uscire e quindi dedicarsi alla sua attività. Quindi, quando all'interno del Parlamento Balbo e i suoi camerati incontrano, diciamo, Guido Picelli, si ingaggia subito uno scontro, perché per l'epoca era l'assoluta normalità. Quindi Guido Picelli prende in mano il suo bastone da passeggio, che era un'arma comune per il tempo. Lui aveva un cappello che portava sempre perché aveva un buco che durante una sparatoria i fascisti gli avevano sparato la testa, ma non l'avevano colpito, e viene accerchiato da Balbo più altri 7-8 fascisti, e questo nelle sale del Parlamento, nella sala dell'Atlantico. E si fronteggiano e Balbo invita i suoi camerati a farsi indietro, che Guido Picelli non era una persona come le altre, e che probabilmente avrebbero fatto anche una brutta figura a scontrarsi con lui. E quindi, per capire, questo lo dico per dire che il conflitto, l'utilizzo della forza erano, diciamo, di per sé dei mezzi piuttosto utilizzati, e che, a mio modo di vedere le cose, a causa del patto di pacificazione che siglò il PSI, mise i compagni e le compagne in una posizione di sudditanza rispetto ai fascisti. Un po' questo, un po' l'ortodossia dei vari partiti pseudo-rivoluzionari dell'epoca ha portato a, diciamo, un inabissamento dell'organizzazione del fenomeno, che si conclude poche settimane dopo la marcia su Roma, perché anche questo è interessante. Cioè, noi pensiamo che c'è stata la marcia su Roma, viene dato il potere, che è finito tutto lì. No, nelle città vanno avanti scontri per settimane, in particolare a Roma vanno avanti per almeno un mese e mezzo scontri nei vari quartieri, in particolare a San Lorenzo, che è, diciamo, un po' una roccaforte rossa, e in seguito a un agguato fascista sotto casa di Argo Secondari, che viene massacrato di botte e rimane, diciamo, paralizzato. Si conclude ufficialmente, quantomeno, questa esperienza. Ultima cosa per concludere, secondo me c'è stata una volontà un po' da parte di tutti di cercare di coprire questo fenomeno degli anni 20. Sicuramente da parte dei fascisti non c'è stato nessun interesse a raccontare la storia di chi li ha messo sul serio i bastoni tra le ruote, e chi davvero ha creato dell'incertezza nella loro ascesa del potere. Ma dall'altra parte, altri responsabili, secondo me, sono gran parte degli intellettuali della cosiddetta sinistra, che non hanno saputo e non hanno voluto accettare che prima della resistenza partigiana ci fossero state altre organizzazioni che, attraverso, diciamo, manu militari, hanno cercato di opporsi al fascismo. E questo lo dico perché la letteratura, ahinoi, è immensamente scarna di informazioni su questo fenomeno. E io credo di aver concluso, ci sarebbero tante cose da dire, ma mi fermo qui. Si prepara Marcello? grazie Orso di quello che hai detto, soprattutto di questa patina che poi nasconde per anni il valore storico di certi personaggi. Personaggi che non si imprimono nella nostra memoria, delle figure storiche di cui facciamo fatica a recuperare le vite vissuti, perché probabilmente anche nella pietra, anche nella volontà celebrativa non magari decisa di qualche gruppo politico di non rimanere, di non farne rimanere traccia. Succedono delle svolte storiche come quella dello squadrismo, che non lascia traccia di nulla prima del loro avvento. E di questa cosa ci parlerà Marcello Ingrao, storico e redattore della rivista Prospettiva Marxista, che ha compiuto uno studio estremamente interessante che poi porterà all'idea del valore dei monumenti, cosa che interessa moltissimo a Ram e che ha dato, grazie alla conoscenza di questo studio, una spinta incredibile verso tutte le prossime cose che vogliamo costruire. L'idea su cui ha lavorato Marcello, che ha indagato Marcello, è il fatto che monumenti celebrativi di un'epoca spariscono all'inizio di un'altra, e adesso ci spiega in che modo. Grazie Cecilia, grazie dell'invito, grazie a tutti voi per essere presenti. È vero, esisteva un'altra memoria della Prima Guerra Mondiale. Però consentitemi un breve excursus. La memoria di cosa? La Prima Guerra Mondiale oggi in genere è rappresentata in una maniera così, abbastanza scontata, abbastanza sembra qualcosa che appartiene a un passato ormai risolto. La Prima Guerra Mondiale fu un avvenimento che segna irreversibilmente il Novecento. La Prima Guerra Mondiale, per usare l'espressione secondo me efficacissima di uno storico che ha scritto un libro fondamentale, Antonio Gibelli, L'Officina della Guerra, definisce la Prima Guerra Mondiale come l'accadimento dell'impossibile. Cioè, prima di questo conflitto, un fenomeno di questa portata per le opinioni pubbliche delle società che vennero coinvolte era impensabile, non era prevedibile, non era ipotizzabile. Certo, ci sono state prima altre guerre in cui lo sviluppo industriale del capitalismo era stato impiegato, era stato sfruttato a fini bellici. La guerra civile americana, su cui mi piacerebbe tornare, ma non in questa sede, non c'è tempo. La guerra franco-prussiana. Però sicuramente su questa scala, sulla scala della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, non era mai avvenuto nulla di simile. Ora, esporrò brevemente alcuni dati, lo so, può sembrare noioso l'esposizione di dati, ma se ci soffermiamo un attimo su questi numeri, si coglie subito la portata di questa esperienza, la dimensione inedita fino a quel momento di questo tornante storico. Prendiamo l'Italia, tra il 15 e il 18, 1915, l'entrata in guerra dell'Italia, il 1918, in Italia vengono reclutati, attenzione, non richiamati, quindi reclutati, passano al Regio Esercito, non tutti ovviamente come forze combattenti, qualcosa come 5.440.000 persone. Ora pensate che l'Italia nel censimento del 1911 conta circa 35.800.000 residenti. 35.800.000 residenti, oltre 5 milioni di arruolati. Cioè, è uno sforzo organizzativo bellico inconcepibile precedentemente. I morti. La cifra per l'Italia canonica un tempo era 650.000, una cifra enorme. Tanto per capire, in Italia non è così dappertutto, i morti soldati, combattenti, militari della Prima Guerra Mondiale sono più di quelli della seconda. Un dato che spesso non viene colto intuitivamente. I morti sono 650.000, ma studi più recenti tendono ad aumentare. 680.000, alcuni anche oltre 700.000. I morti di cui non si è trovato il corpo o non si è potuto ricostruire l'identità sono 200.000. Questo è anche legato alle nuove tecniche belliche. Granate che polverizzano il corpo. Non è raro che il corpo non venga trovato perché sotto il bombardamento è letteralmente scomparso. I feriti sono una cifra, anche qua incredibile, dai 950.000 a oltre 1.000.000. Nel 1927 risultano beneficiari di pensioni di invalidità, in quanto reduci del primo conflitto mondiale, 450.000 circa persone. Cioè, immaginiamocelo, qua è un'alluvione di corpi lacerati, mutilati, che si, in genere giovani, che si abbatte sulla società italiana. Do qualche dato per capire ancora una volta la dimensione. 14.114 sono i grandi invalidi, 1.466 ciechi totali, completamente privi della vista, 22.640 gli amputati. Ma non è solo l'Italia. La Francia, e do solo un dato per, ovviamente per non dilungarmi troppo, la Francia, che sarà uno dei paesi che pagherà un tributo di sangue tra i maggiori del primo conflitto mondiale, la fanteria, come sempre l'arma che più subisce perdite in guerra, almeno nel Novecento è stato così, la fanteria, e qua mi riferisco solo alle truppe combattenti invece, un ufficiale su tre muore, un soldato di truppa su quattro muore. Cioè, erano cifre, ripeto ancora una volta, impensabili precedentemente. È una violenza industrializzata oramai, ha ragione Gibelli, è l'officina della guerra. È una violenza che si avvale della tecnologia, delle modalità organizzative di un capitalismo maturo che sta maturando. È una violenza omologatrice. C'è una violenza che a sua volta accelera la trasformazione sociale delle società coinvolte in senso capitalistico. È la guerra delle artiglierie che abbassano le alture, le colline. A Verdun, dopo la battaglia, vennero misurate alcune alture e risultarono di decine di metri in alcuni casi più bassi di prima della battaglia. È la guerra che vede il primo impiego del carro armato, inizialmente da parte inglese. Vede l'impiego delle armi chimiche, vede l'utilizzo di mitragliatrici in grado di avere un volume di fuoco di centinaia di colpi al minuto, anche 500 e 600. Immaginate voi l'effetto che ha questa mitragliatrice su colonne di fanteria in marcia, all'assalto. Ma non è solo questo, l'industrializzazione della guerra, la guerra industriale. E anche nelle trasformazioni, e dal nostro punto di vista ci interessa anche di più, è la trasformazione di quello che gli inglesi chiamano il manpower, il materiale umano, la forza lavoro umana coinvolta. Sostanzialmente scompare il combattente individuale che con le sue abilità fisiche e le sue capacità morali riesce a incidere sul combattimento. O magari sopravvive perché è più abile di altri. Finisce completamente questa fase. Catapultati in un campo di battaglia saturo di metalli che volano, che esplodono, che fanno a pezzi, una scheggia poteva tranquillamente tagliare in due una persona. Non è più questione di valore, è questione di fortuna, è questione di essere nel momento giusto al posto giusto, nel momento sbagliato al posto sbagliato. Il mitragliere, questo lo descrive bene uno storico inglese di militare molto famoso, John Keegan. Il mitragliere diventa un operatore industriale che manovra la mitragliatrice come si potrebbe manovrare un tornio ad alta precisione o una pressa automatica. Ovviamente non fa più prodotti, ma fa morti, feriti. La trasformazione psicologica, e qua cito una fonte di insospettabile autorevolezza, padre Agostino Gemelli, sacerdote, medico, futuro fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, fa tutte, non si è risparmiato nulla, e in questo caso soprattutto consigliere psicologico e spirituale di Luigi Cadorna, comandante in capo generale dell'esercito italiano. Scrive un libro, Il nostro soldato, in cui da affermato psicologo teorizza e pratica questo obiettivo, spersonalizzare il soldato. Il soldato non serve più se imbevuto di grandi ideali, se motivato. Serve un soldato che sia un ingranaggio della grande macchina della guerra, spersonalizzato, docile, passivo. Giustamente Gibelli fa un parallelo col fordismo, quindi con la fabbrica fordista e i suoi effetti sulla forza lavoro. Ma il soldato non è solo forza lavoro nella guerra industrializzata, è anche macchinario, è anche macchina. Do un dato veloce che mi ha colpito molto, non lo conoscevo, l'ho trovato di recente. Ancora una volta l'esercito francese ha un numero di feriti, io non so, veramente incredibile. Sul totale dei richiamati in Francia il 40% verrà ferito in guerra, 40%, con ferite ovviamente di varia gravità. La metà fu ferita due volte nel corso della guerra, oltre 100.000 dalle tre alle quattro volte. Cioè il soldato viene aggiustato più facilmente, perché nel frattempo sono migliorate le tecniche mediche, la chirurgia da campo, quindi è più facile aggiustarlo, rimetterlo in sesto, la manutenzione di massa del soldato e rispedirlo, generando così quel meccanismo, quel ciclo infernale di distruzione di massa, cure mai viste su questa scala per poter reimmettere questo materiale umano ancora nel tritacarne. Tritacarne non è una parola che uso a caso, che uso per voler dare colore e enfasi. Alla battaglia della Somme, luglio 1916, il corpo di spedizione britannico, nelle prime ore della battaglia, ha 20.000 morti. 20.000 morti. Bene, di questa, la memoria di questa colossale, spaventosa carneficina che ha cambiato da tanti punti di vista la società, oggi rimane in genere diffusa una memoria apparentemente paradossale. La prima guerra mondiale oggi, forse più che qualche decennio fa, dove era più forte anche in ambito accademico una certa venatura critica, oggi la prima guerra mondiale tende a essere la buona guerra. La seconda meno, ma la prima guerra mondiale è la buona guerra. E non lo dico a caso. Nel 2021, recentemente, il Corriere della Sera e La Stampa hanno pubblicato articoli in cui veniva sostenuto esattamente questo. Forse in occasione del centenario della tumulazione del Milite Ignoto, ricordavano come la prima guerra mondiale come un grande momento di unità nazionale che ha unificato il paese. Un momento certo doloroso, ma in cui tutte le classi che componevano la società italiana si sono riunite, si sono riconosciute come appartenenti a questa nazione che finalmente nasce in questo momento drammatico, ma grandioso e fondamentalmente giusto. Io sono rimasto molto colpito perché questa visione si accompagna, e questo tutti lo riconoscono ormai, a un'autentica monumentomania che segue la Prima Guerra Mondiale. Da questo punto di vista, allora, la monumentomania, fornisco solo un numero, tra le due guerre vengono innalzati 12.000 tra monumenti, cippi e lapidi. 12.000 i comuni italiani nel 1911 sono 8.323. Cioè, viene sommersa l'Italia di lapidi, monumenti, cippi. Alla fine del 22 il Ministero della Pubblica Istruzione lancia l'iniziativa dei viali e dei parchi della rimembranza. Ogni città quasi ha un viale e un parco della rimembranza. Un anno dopo, ottobre 2021, risultavano inaugurati 1048. Io cerco di stare stretto con i tempi, ma vi invito a riflettere. Fateci caso, se non ci avete fatto caso già autonomamente, diciamo, ma ogni minuscolo agglomerato italiano, fossero pure quattro case, ha la sua lapide della Prima Guerra Mondiale, dei caduti della Prima Guerra Mondiale. In genere, se è un monumento, viene aggiunta successivamente una seconda lapide per i caduti della Seconda Guerra Mondiale. Ma il monumento, in genere, è quello della Prima Guerra Mondiale. Non manca mai. L'ho visto nelle mie ricerche, addirittura murato una lapide in alcune cascine, neanche paese, in alcuni cascinali, i caduti che vivevano in quel cascinale. Fu capillare questa cosa. Allora, quindi, se prendiamo per buona la tesi della buona guerra, la tesi della guerra che unifica, della guerra in cui gli italiani si sono spontaneamente riconosciuti in maniera sofferta ma convinta, allora questa monumentomania è insieme causa ed effetto di questo consenso. È un meccanismo per generarlo, ma è anche l'espressione. Il fante che muore, la vittoria alata, avete presente tutti questi monumenti? Sono l'espressione genuina di un consenso unanime. Mi ha colpito che questa tesi non è solo presente, ripeto, sui quotidiani chiaramente ispirati a un clima politico presente. È presente questa lettura della normale memoria della Prima Guerra Mondiale come condivisa e patriottica anche in studi serissimi. Ne cito uno, di due autori francesi molto importanti, Stéphane Audouin-Rousseau e Annette Becker, specialisti della Prima Guerra Mondiale, che a proposito dei monumenti, è vero che loro si occupano più che altro dell'area tedesco, francese e inglese, però il loro studio vuole avere un respiro europeo, affrontano brevemente la questione dei monumenti.